2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 7 e 8 dicembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Come sempre anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Sono oramai migliaia le persone che ogni settimana si scaricano la nostra puntata attraverso i sistemi di Radio 24. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it e lì trovate tutte le informazioni, oppure scriveteci a 2024@radio24.it. Potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook o anche attraverso il nostro account Twitter. Se volete andare direttamente sul mio account Twitter, @_Pagliarini, molto semplice, oppure c'è il servizio ricerca, fate Enrico Pagliarini come ricerca. Sicuramente questa settimana si è parlato molto, si è riparlato di droni, un tema su cui noi siamo tornati più volte, abbiamo anche dedicato una puntata ai droni qualche mese fa, parlando anche di un altro aspetto molto importante, non solo quello tecnologico ma quello regolamentare, perché tutto quello che accadrà nei prossimi anni nel mondo dei droni dovrà tener conto anche delle regolamentazioni e viceversa. Le regolamentazioni e le regole dovranno tener conto anche dello sviluppo tecnologico. Non è sempre così. Non accade sempre che le regole e le leggi si adeguino velocemente alla tecnologia, ma dovrebbe essere così. Però sapete che Amazon ha promesso di introdurre le consegne via drone. Il drone è un piccolo elicottero elettrico, in questo caso con 8 rotori, e ce ne sono altri fatti in altro modo, che vengono già oggi utilizzati anche in Italia per riprese aeree, per controllo di luoghi pericolosi, che ne so, ad esempio per andare a controllare i cavi dell'alta tensione, cosa che fatta con l'elicottero è sicuramente molto pericolosa. Questa cosa la si fa già oggi con i droni. Allora, Amazon dice: entro i prossimi 4-5 anni negli Stati Uniti faremo consegne, quindi metteremo sotto al drone, sotto questo piccolo elicottero, un pacco che il cliente ha ordinato e lo consegneremo entro 30 minuti nel raggio di 10 miglia nel cortile di casa. Attenzione, naturalmente ci deve essere una zona, non si può fare sul balcone o in altre zone un po' pericolose. Allora, va detto che questa notizia non è certo nuova, perché prove per fare consegne con microdroni sono già state fatte ad esempio dalla catena di pizzerie Domino, che ha avuto questa idea: facciamo le consegne con il drone, ti porto la pizza, e lì sì che la velocità conta, è fondamentale. Poi ci sono test in corso in Cina, c'è un corriere che in Cina ha già fatto alcuni tentativi. E poi una startup australiana ha già annunciato l'avvio di un servizio commerciale di consegna libri per marzo 2014. E pare che in Australia la regolamentazione sia già stata adeguata. E comunque il problema rimane. Attualmente quasi tutte le regolamentazioni, anche in Italia l'ENAC dovrebbe arrivare ad una regolamentazione entro la fine dell'anno, dovrebbe, vedremo e speriamo, e comunque ad oggi tutte queste cose devono essere fatte dall'uomo, quindi l'uomo deve pilotare il drone e deve sempre essere in contatto visivo con il drone, quindi deve vederlo sempre costantemente. Altra cosa invece è affidare la consegna di un pacco ad una macchina che vola in autonomia, e in questo caso i regolamenti aeronautici sicuramente non saranno clementi, quindi vedremo quello che succederà nei prossimi anni. Di certo, e questo va detto e va aggiunto, lo hanno notato in molti, è quello che ha fatto Amazon in questi giorni con una mossa, diciamo, a sorpresa, perché da molto tempo che ad Amazon si stanno occupando di queste cose, e casualmente la notizia è stata fatta uscire poco dopo che i media, soprattutto in Germania e in Gran Bretagna, ma poi ripresi da un po' tutto il mondo, hanno parlato di Amazon in altri termini, cioè tornando a parlare delle condizioni di lavoro nei magazzini di Amazon. c'è stata un'inchiesta addirittura della BBC, poi c'è stato uno sciopero in un magazzino in Germania, e quindi sicuramente per sviare l'attenzione su altro questa mossa è stata molto azzeccata, e sicuramente l'ufficio comunicazione di Amazon funziona molto bene. Prima di proseguire con i nostri approfondimenti per questa settimana, alcune notizie in breve. Digital News. Iniziamo dal mondo della pubblicità online. Secondo i dati diffusi dallo IAB, l'Interactive Advertising Bureau, che a Milano ha tenuto una due giorni chiamata IAB Forum, gli investimenti in pubblicità online crescono del 7,7% nel 2013 per un valore che supera l'1,5 miliardi di euro. A guidare la crescita è il cosiddetto display advertising, quindi di fatto i banner, su cui si concentra il 47% degli investimenti di pubblicità online. Quindi pensate che l'altra metà della pubblicità va su cose tipo i motori di ricerca, prevalentemente Google e Facebook. Questi due giganti fanno quasi metà del mercato pubblicitario in Italia. Pensate un po', Allora, a crescere di molto è il video, quindi la pubblicità tramite video, più 38%, e quella erogata via mobile, più 34%. Digital News. Microsoft è riuscita ad intercettare, assieme alla divisione cybercrime sia della Europol e dell'FBI, una rete botnet chiamata Zero Access, che ha infettato, pensate, oltre 2 milioni di computer in tutto il mondo, e nel solo mese di ottobre ce n'erano infettati ancora 800.000. Danni stimati per 2,7 milioni di dollari ogni mese. Si tratta di una rete di computer infettati che vengono usati per lanciare attacchi digitali o che vengono indirizzati su siti pericolosi in grado di rubare informazioni da questi computer. Ci sono molte botnet, questa Zero Access è una delle più pericolose, che non è stata debellata completamente, ma diciamo che sono stati intercettati molti nodi e quindi sicuramente molto meno efficace ed efficiente. Digital News. Se siete utenti Android e avete scaricato Bright Test Flashlight, un'app per usare la luce del flash della fotocamera dello smartphone come torcia quando è buio, però bene sappiate che la Federal Trade Commission americana ha scoperto che l'app raccoglie molti dati sensibili, come ad esempio la posizione, i propri contatti, eccetera, eccetera. La gente continua a dire accetto, accetto, accetto quando scarica un'app, ma non va a leggere cosa dice l'app. In questo caso i dati vengono ancora raccolti e poi vengono venduti alle agenzie pubblicitarie, cosa non gravissima, ma ci sono tante app che invece raccolgono dati in modo fraudolento. Ma finché la gente scarica le app e dice accetto, accetto, accetto senza andare a vedere a che tipo di informazioni le app vogliono accedere, questo capiterà sempre. Digital News. La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sul copyright per rivedere e rendere più moderne le norme sul diritto d'autore. In Italia invece l'autorità per le comunicazioni sembra intenzionata a procedere per adottare prima di Natale il regolamento sulla tutela del diritto d'autore online. Regolamento fortemente criticato da più parti, e anche in Parlamento c'è chi chiede di rivedere le norme sul diritto d'autore con un provvedimento di legge e non con un atto di un'autorità indipendente. Abbiamo parlato poco fa di droni, seguiteci, perché sicuramente questo è un argomento che a noi interessa in modo particolare, anche perché ci sono alcune start-up in Italia che si occupano di droni a vario titolo e con vari tipi di modelli, e sicuramente questo sarà un tema di cui parleremo. Tra le cose che mi sono segnato su suggerimento degli ascoltatori, anche se in questo caso non prometto che ne parleremo a breve, la parola Bitcoin mi fanno sorridere alcuni ascoltatori che mi hanno scritto, mi hanno detto: ma avete mai sentito parlare dei Bitcoin? Sicuramente sono 2 o 3 anni che studio il dossier, quindi che mi interesso, parlo con le persone che a vario titolo sono impegnate su questo settore. Questa moneta virtuale digitale, che non ha una entità di emissione ma è basata sul concetto del peer-to-peer, è un fenomeno molto interessante. Ne parleremo, cercheremo di parlarne, anche se è un tema piuttosto complesso che riguarda sì la tecnologia, ma riguarda anche il mondo finanziario. Adesso se ne sta parlando molto perché c'è stata una speculazione incredibile sul livello dei Bitcoin, anche se diciamo il freno che è stato messo alla diffusione di questa moneta dalla Cina potrebbe creare qualche problema, ma vedremo e seguiremo. Sicuramente anche sul Sole 24 Ore ci occupiamo di questo argomento. Adesso parliamo di contenuti on demand. Allora, sapete che internet è perfetto per consumare contenuti on demand. È perfetto ad esempio per vedere un film o ascoltare il podcast di 2024 quando preferiamo. Ne abbiamo voglia, schiacciamo un bottone e vediamo un contenuto o ascoltiamo un contenuto. Magari lo possiamo vedere o ascoltare anche a pezzetti. Molti nostri ascoltatori ci dicono: beh, io ascolto 10 minuti di trasmissione al giorno. Però ha molto meno senso per i contenuti in diretta, quindi una partita di calcio, il giornale radio, una trasmissione radiofonica che sta commentando cose che stanno accadendo o che sono accadute da poco tempo. In quel caso il tradizionale broadcast è molto più efficiente. Ma visto che sono molti di più i contenuti per i quali non è necessario essere legati ai cosiddetti vincoli di palinsesto, è naturale che molte persone si spostino su sistemi che permettono di fare queste cose, tipicamente su internet. Badate bene che sono ancora poche, perché purtroppo la stragrande maggioranza della popolazione in Italia è digitalmente poco evoluta, quindi queste cose stanno accadendo anche in modo molto veloce, ma per una fetta purtroppo molto piccola della popolazione. Per fortuna per tutti quelli che appartengono al mondo vecchio, però queste cose succedono, e infatti quasi tutti i grandi broadcaster si stanno occupando di questo fenomeno. Ad esempio, Sky ha fatto un passo in avanti verso questo mondo, ha esteso proprio in questi giorni a tutti gli abbonati il servizio on demand, ha lanciato per ora per gli abbonati al cinema, poi verrà esteso a tutti, una utile funzione che si chiama Restart. Se cambiamo canale, ad esempio sulla piattaforma di Sky, ci imbattiamo su un film già iniziato e che ci interessa, è possibile, schiacciando un tasto, vedere quel contenuto dall'inizio. In questo caso il decoder deve essere connesso alla rete internet, e infatti Sky parla di un servizio, un'offerta ancora ibrida tra la piattaforma satellitare, quindi il decoder che riceve il satellite, e il decoder collegato alla rete internet. Dalla rete internet vengono prelevati molti contenuti, tipicamente appunto in questa piattaforma on demand. Tra l'altro, tra le novità che sono state lanciate in questi giorni da Sky va citata anche l'estensione di Sky Go ai sistemi con Windows Phone 8. Visto che Windows Phone 8 ha il 16% del mercato italiano tra gli smartphone, è sicuramente una notizia interessante, che almeno interessa al 16% dei consumatori. Allora, Sky dovrebbe lanciare il prossimo anno una vera e propria piattaforma di video on demand basata solo ed esclusivamente su internet, quindi senza decoder, svincolata dall'offerta tradizionale. E sempre il prossimo anno potrebbe arrivare sul mercato italiano, cosa che si dice da tanto tempo, potrebbe arrivare Netflix, il più noto servizio al mondo di video on demand. Per il momento che cosa sta succedendo? Allora, il mercato si sta muovendo e l'11 dicembre, quindi fra pochi giorni, Mediaset lancerà un servizio che si chiama Infinity, servizio via internet per vedere, sulla base di un abbonamento mensile, un numero illimitato di film. Ne parliamo con chi si occupa della comunicazione di Infinity, che Mediaset stessa definisce come una startup, Tullio Camiglieri, benvenuto a 2024. Grazie a voi. Come lo definite questo nuovo servizio? Che cos'è Infinity? Sì, dunque, diciamo, per la prima volta saranno disponibili un numero consistente di titoli, parliamo in questo caso di circa 5.000 titoli, che saranno accessibili attraverso la rete. Chiamiamolo così, una grande library, un grande luogo dove sarà possibile poter accedere con un abbonamento mensile, quindi di mese in mese si potrà decidere di rinnovare o meno, e quindi questo renderà possibile poter vedere qualunque di questi titoli. Stiamo parlando di film fondamentalmente. Stiamo parlando fondamentalmente di film, ma parliamo anche di serie televisive. Parliamo di una library che poi progressivamente col tempo crescerà. Oggi il prodotto fondamentale disponibile è quello cinematografico, insomma, parliamo di film che sono film usciti da poco in sala, da alcuni mesi in sala, piuttosto che invece film storici della cinematografia italiana o internazionale. Quindi uno fa l'abbonamento e poi vede tutto quello che è disponibile nella libreria? Assolutamente, sì, fa un abbonamento a 9,99 euro al mese e quindi ogni mese può disdirlo o rinnovarlo, e in quel lasso di tempo ha la possibilità di vedere uno qualunque di questi film, naturalmente quante volte vuole, su 5, questa è l'altra cosa importante, su 5 terminali diversi. Avrà a disposizione un login e una password che gli permetteranno di entrare all'interno del servizio da 5 terminali diversi. Questo con l'idea di offrire un servizio che possa coinvolgere tutta la famiglia, e quindi poter dare la possibilità di poter avere prodotti di tipo diverso. È un servizio che viene erogato via internet e può essere visto ad esempio su un televisore che si può connettere ad internet, oppure un tablet, anche uno smartphone, immagino, un computer. Allora sì, assolutamente sì, tablet, computer. Per quanto riguarda lo smartphone, gli smartphone saranno raggiungibili entro il primo trimestre del 2014. Vabbè, anche se effettivamente io non so quanti saranno i nostri ascoltatori che vorranno vedersi un film sullo smartphone, chiaramente immagino che il terminale al quale si pensa per primo sarà il televisore. Ah, sì, naturalmente, il televisore e il computer, ormai tenendo conto del fatto che poi molti, soprattutto le giovani generazioni, i prodotti audiovisivi spesso li consumano sul PC di casa, sì. E direi anche sull'iPad, perché sicuramente possono esserci delle situazioni anche in movimento, in vacanza, quando uno non è a casa, che magari ha voglia di distrarsi e vedere un film. Naturalmente è chiaro che insomma il film vale la pena vederselo su uno schermo adeguato. Certo, questi sono film disponibili anche in alta definizione? Sono tutti i film che sono in alta definizione, sono disponibili in alta definizione, assolutamente sì, sono disponibili in alta definizione con l'audio originale nel caso in cui parliamo di cinematografia non italiana, oppure con audio originale e sottotitoli, quindi diciamo l'offerta c'è anche questa opzione, diciamo così, assolutamente oltre sì, all'italiano assolutamente sì, chiaro. Sì. Diciamo che è una esperienza ormai che in alcuni paesi è molto avanzata, soprattutto parlo del mercato americano, dove c'è un'offerta importante di questo tipo di prodotto. E noi ci avviamo oggi verso questa offerta, anche perché diciamocelo un po', scontiamo i ritardi che voi per primi ben conoscete, i ritardi di sviluppo della rete. Infatti questa è la mia prossima domanda, siete un poco preoccupati della disponibilità di connessioni a banda larga in Italia, perché naturalmente questo business, il business di Infinity, cresce laddove c'è disponibilità di banda, dove insomma invece le ADSL non sono molto performanti, forse faticano i consumatori ad abbonarsi ad una cosa del genere. Guardi, oggi in realtà noi siamo riusciti a mettere a punto un servizio per accedere al quale basta una connessione standard, quindi diciamo da questo punto di vista quanti mega? 4 mega? Ma Sì, quello, sì, quello che è esatto, quello che è più o meno oggi la disponibilità standard in qualunque abitazione, non servono tantissimi, insomma non serve la disponibilità di. Quindi lei dice questo non è un grossissimo vincolo per noi. Allora no, questo in questo momento no. Quindi, allora diciamo non è un grosso vincolo, il servizio è partito anche, siamo diciamo così confidenti che possa funzionare proprio perché i tecnici sono riusciti a mettere appunto un sistema di offerta per il quale la connessione standard che c'è nel nostro paese è sufficiente. Naturalmente non nascondiamoci il fatto che più la banda larga si svilupperà e più questo tipo di servizi saranno alla portata di tutti, questo è evidente, ma insomma questo so che voi ne fate anche uno dei vostri segni identitari come trasmissione, insomma so che voi su questo siete molto attenti e sì. Credo che sia un problema però al di là di questo proprio di sviluppo del paese. Certamente. Una necessità improrogabile. Esattamente. Stiamo parlando di contenuti anche nuovi in questo caso, anche film abbastanza recenti. Stiamo parlando naturalmente anche di contenuti di film che sono appena usciti dalle sale e quindi naturalmente sempre più saranno disponibili film che sono diciamo mediamente, possiamo parlare di film che dopo 3 mesi dall'uscita delle sale possono essere già disponibili su questo tipo d'offerta. Camilleri, io la ringrazio per essere stato con noi, anche per averci dato questa anticipazione, quindi sicuramente in bocca al lupo. Grazie a voi. Ovviamente al di là dell'offerta commerciale di Infinity, che poi dovrà fare i conti anche con i competitor che arriveranno molto probabilmente il prossimo anno e anche gli altri servizi diversi, perché non c'è nulla su abbonamento a 10 euro al mese, puoi vedere tutto quello che vuoi sul territorio italiano. Dicevo, al di là dell'offerta commerciale, quello che a noi interessa è l'aspetto tecnologico di tutto ciò e di come internet sta cambiando, naturalmente molto lentamente, anche perché in questo caso gli investimenti sono ingenti e importanti, e poi c'è tutto il tema della banda larga, ma oggi non entriamo in questo dibattito che tocchiamo molto molto spesso. Dicevo, molto lentamente sta cambiando anche un media importante come il mondo televisivo. Adesso parliamo di pubblicità online, perché è stata presentata in Italia una offerta che si basa su una tecnologia sempre italiana ed è stato un annuncio in prima mondiale che combina il mondo della pubblicità tradizionale con le emozioni, i sentimenti, con il contesto all'interno del quale un utente sta, ad esempio, leggendo un contenuto online. Una tecnologia che si basa sulla semantica, quindi le macchine che erogano messaggi pubblicitari sono in grado di comprendere e capire che cosa c'è scritto su una pagina e in modo contestuale e coerente possono erogare contenuti pubblicitari, diventando un po' più intelligenti rispetto ai network pubblicitari ai quali siamo abituati. In gergo gli esperti lo chiamano sentiment advertising. Ne abbiamo parlato con Riccardo Piccioli, che è l'amministratore delegato di questa nuova società che presenta questo servizio, che si chiama Sentiment ADV. Intanto siamo orgogliosi di essere i primi al mondo, appunto l'Italia una volta tanto è davanti a tutti. La novità è legata ai valori emozionali. Tutte le pubblicità sono basate fondamentalmente su delle emozioni. Il centro di tutto il messaggio pubblicitario ormai da diversi decenni è emozionale. La nostra tecnologia intercetta, capisce, comprende, legge la pagina come farebbe una persona, appunto come fa la persona che naviga su internet, interpreta quali sono i sentimenti prevalenti nella pagina e abbina di conseguenza le giuste pubblicità a livello emozionale. Quindi diciamo un investitore può scegliere di essere in pagine dove c'è felicità anche legata a dei temi particolari? Sì, noi abbiamo individuato 21 grandi diciamo cluster, grandi insiemi di emozioni che vengono utilizzate prevalentemente in pubblicità e abbiamo creato 21 canali su base emozionale che sono appunto abbinati a queste 21 prevalenti emozioni in pubblicità. Questo vale anche in negativo, cioè l'investitore può dire non voglio essere abbinato ad esempio a sentimenti negativi, tristezza, stragi, visto che poi su internet molti sono i contenuti negativi, soprattutto sui siti di informazione. Ecco, questa è proprio la prima cosa, no? Di fatto, cioè la pubblicità esprime fondamentalmente cose positive legate alla marca e spesso l'impaginazione va a finire in un contesto invece molto negativo, perché purtroppo le nostre pagine internet e la nostra vita è infarcita di cose tristi, di cose negative, di drammi, di alluvioni. Soprattutto in questo periodo, potremmo dire. Certo. Poi qui sì, poi in Italia ci mettiamo il carico. E quindi ovviamente quella è la prima cosa. Cosa avviene nella mente della persona quando è immerso in una lettura di una cosa, per esempio di un dramma appena avvenuto, di un terremoto, di un alluvione, che tutto il resto diventa un disturbo a livello emotivo, tutto il resto non è, soprattutto tutto il resto che contrasta, quindi un messaggio di gioia, di felicità diventa in qualche modo un qualcosa che non è adatto a quel momento e viene rifiutato. Senti, voi come fate a capire che cosa c'è? Tu mi hai detto noi comprendiamo il testo, quindi ci sono dei sistemi automatici che leggono le pagine internet. È una cosa molto interessante perché è molto tecnologica, ma alla fine ha a che fare con quello che succede nell'apprendimento della lettura per l'uomo, proprio per come si insegna a leggere a un bambino. Noi abbiamo una immensa cloud, grazie al nostro partner tecnologico Admantix, che è il leader mondiale della semantica avanzata, ed è un immenso numero di computer ai quali è stato insegnato come si insegna ai bambini a leggere un testo, quindi gli è stata insegnata un'analisi grammaticale, analisi logica, la disambiguazione, cioè l'interpretazione di una parola che può significare una cosa o un'altra, e il contesto nel quale ciò avviene. E in questo modo, per esempio, il computer, così come l'uomo, riesce a capire che se dico sto andando a prendere un espresso e mi fermo lì, potrebbe voler dire un caffè espresso o un treno espresso. Se dico sto andando in stazione a prendere un espresso, probabilmente, molto più probabilmente, è un treno, e così via. Il partner tecnologico di Sentiment ADV si chiama Admantix, è sicuramente il leader mondiale nella semantica, e un esempio che mi piace utilizzare per far capire come funziona questa tecnologia è quello di un articolo. Immaginate di essere davanti ad un articolo su un sito web, si parla di una nave, ma si parla del naufragio di una nave. Allora, se si eroga la pubblicità basata su il classico incrocio con delle parole chiave, quindi io sono un investitore pubblicitario e faccio crociere, organizzo crociere e voglio essere su tutte le pagine dove c'è la parola nave, perché molto probabilmente se uno legge una roba dove c'è una nave, quello è coerente con la crociera. Peccato che però se si sta parlando di un naufragio forse è meglio non esserci in quella pagina, e quindi la tecnologia semantica capisce di che cosa si sta parlando. Viceversa, capisce se si sta parlando di navi e di crociere, ad esempio, quindi anche di una cosa bella, positiva, e lì sì, la pubblicità ci deve essere. Questo permette di fare la tecnologia semantica, ma potremmo andare molto in profondità e parlare per 8 ore di cose straordinarie e bellissime. Questo è 2024, ci fermiamo per qualche minuto, tra poco parliamo di Firefox OS. A tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ringrazio Anita Panizza che ci aiuta in redazione durante la settimana e come sempre tutti i tecnici di Radio 24, oggi Roberto Scaltritti. Adesso parliamo di una novità che è stata lanciata a febbraio dalla Mozilla Foundation, ma la novità riguarda il nostro paese perché Telecom Italia ha deciso di lanciare anche nel nostro paese uno smartphone, in particolare un Alcatel, One Touch Fire, che ha un nuovo sistema operativo. Allora, noi parliamo spesso di sistemi operativi, quindi parliamo di Android, parliamo di iOS, quindi del sistema operativo di Apple, parliamo di Windows Phone, che cresce molto soprattutto nel nostro paese, e invece commentiamo anche spesso il calo che ha avuto BlackBerry. Allora, questo è un ecosistema molto complicato. Allora, ci sono altri sistemi operativi. All'inizio dell'anno abbiamo parlato, ricorderete, di Yola Mobile, di questo nuovo sistema operativo che è stato lanciato in un numero limitato di pezzi in Finlandia. Firefox OS è un sistema operativo che si basa sul web, è una cosa molto bella perché il web è aperto, con qualsiasi sistema operativo, con qualsiasi browser voi potete andare sul web. E invece con il mondo delle app inventate dai vari sistemi operativi, diciamo rilanciate dalla Apple ma poi fatte proprie da altri sistemi operativi, si sono creati tanti mondi paralleli, ma che hanno delle barriere molto complesse, perché passare da un sistema operativo ad un altro mantenendo le proprie app è difficile. Allora, quali sono le novità di Firefox OS? Ne abbiamo parlato con il vicepresidente della parte di engineering di Firefox, Jonathan Nightingale. Firefox OS is new in the sense that, you know, this is something we're bringing to the mobile space for the first time. But in another sense, il sistema operativo Firefox è nuovo, nel senso che arriva sui dispositivi mobili per la prima volta. È conosciuto però da molto tempo, e la cosa che rende Firefox differente è che è costruito sul web. Le persone usano il nostro browser da 10 anni. Noi di Mozilla l'abbiamo infatti rilasciato nel 2003. So this is really quite a mature technology. We're just taking it in a new direction. Dunque, si tratta di una tecnologia piuttosto matura. La stiamo solo portando in un nuovo campo, quello dei dispositivi mobili, e in particolare su quelli con una fascia di prezzo molto abbordabile, un mercato che sistemi pesanti come iOS o Android hanno sempre fatto un po' fatica a soddisfare. Has been difficult to serve with these heavier operating systems like iOS and Android. Chi utilizzerà questo sistema operativo, o comunque la scelta di utilizzare questo sistema operativo, chi la farà? Gli operatori telefonici, le società che producono telefoni o altri soggetti. So we've seen a lot of interest from the manufacturers around building phones from the very affordable to the very high-end smartphones using our technology. Abbiamo riscontrato un grande interesse verso la nostra tecnologia da parte dei produttori di smartphone, da quelli più economici a quelli di alta gamma, ma i nostri recenti annunci si rivolgono soprattutto sulle grandi compagnie di telecomunicazione. The major telcos. So Telefonica has been a great partner since we started this project, so has Deutsche Telekom. Telefonica e Deutsche Telekom sono nostri partner sin dall'inizio di questo progetto, e sono sempre di più gli operatori interessati ad uno smartphone con un sistema operativo basato sul web, e sono entusiasti all'idea di inserire questi dispositivi non solo su mercati emergenti, dove il prezzo contenuto è sicuramente un punto di forza, ma anche nei mercati consolidati, perché questi device hanno davvero un altissimo potenziale di rappresentare una valida alternativa. It's got such potential to really explode as an alternative. Mettiamoci dalla parte del consumatore. Perché dovrei utilizzare un sistema operativo nuovo come Firefox OS? Right. So if we talk about why someone would choose it, I think that most people who pick up their first smartphone, they're amazed. It's great, you can go and download apps, you have a very nice experience. Perché il consumatore dovrebbe preferire il nostro prodotto? Beh, molte persone, se ripensano al loro primo smartphone, saranno state affascinate dalle sue potenzialità. Ma quando si pensa al secondo o terzo smartphone, specialmente se si passa da un iOS ad un Android o viceversa, si ha un'amara sorpresa, che tutte le applicazioni e le personalizzazioni che si avevano su una piattaforma sono perse. Non si possono trasportare sul nuovo dispositivo. Is lost. You can't take it with you. The nice thing about Firefox OS is that because we're built on the web, these apps that you purchase, you can use anywhere. The profile you build up. La cosa bella di Firefox OS è che, siccome è costruito sul web, le app che si sono acquistate e le impostazioni del proprio profilo si possono usare ovunque. Le app di Firefox sono basate sul web, ma hanno un aspetto del tutto simile alle app che risiedono in loco sul dispositivo. Insomma, non sembrano delle pagine web. They feel like real apps. They don't look like a web page. But even if you end up borrowing a friend's iPad or something. Inoltre consideriamo che ciò che accomuna ogni dispositivo mobile è la presenza di un browser. Così, se un utente Firefox prende in prestito un iPad, potrà comunque accedere a tutte le proprie applicazioni, perché sull'iPad c'è un browser internet. Così, se parliamo di servizi online, come quelli musicali ad esempio, la forza di questo sistema risiede nel fatto che tutti questi servizi già esistono sul web. Mozilla is not new. A lot of people know and use Firefox on the desktop. That's great. If we were to come in new and say, hey everybody, you need to write a third version of your applications, or a fourth or a fifth after BlackBerry and Windows Phone and things like that, I think nobody would listen to us. But voglio dire, se fossimo un soggetto nuovo e sconosciuto e chiedessimo che venisse scritta una nuova versione delle app per noi, dopo BlackBerry, Windows Phone, eccetera, nessuno ci darebbe retta, naturalmente. Ma la buona notizia è che la versione per noi è già stata scritta. Nella maggior parte dei casi possiamo semplicemente prendere il loro sito internet e impacchettarlo in un'app più leggera. Così, se vogliono i social media come Facebook o Twitter, li si trovano già lì. Li si può utilizzare su Firefox OS. Se si vuole un servizio musicale, è già disponibile sia come prodotto a sé, sia attraverso l'interazione via web. Either they're part of our marketplace already, or you can interact with them just like you would through a web browser. Mi sembra molto interessante e anche con una prospettiva molto interessante. Ma vogliamo saperne di più e soprattutto vogliamo capire perché Telecom Italia è uno dei grandi operatori e soprattutto per quale motivo poi sono gli operatori che sono particolarmente interessati a questo sistema operativo, a questa proposta. È con noi Oscar Cicchetti, che è il direttore delle strategie di Telecom Italia. Benvenuto a 2024. Grazie a voi, buongiorno. Allora, a proposito di strategie, qual è il motivo che vi ha spinto a scegliere questo sistema operativo, a offrire al mercato questo smartphone, eccetera, eccetera? Il tema del sistema operativo nel mobile e il tema soprattutto di guardare Mozilla deriva da un fatto molto semplice. Sono nati su internet dei nuovi monopoli globali basati intorno a motori di ricerca, sistemi operativi, a terminali, che in qualche maniera tentano di bloccare, di chiudere i clienti all'interno di un silos verticale. Per noi è importante invece che il cliente sia libero, che non sia condannato perché ha scelto un terminale ad avere anche un app store, ad avere anche determinate applicazioni e quant'altro. L'apertura dei sistemi operativi, l'apertura degli app store, l'apertura dei search engine genera in qualche modo maggiore libertà per il cliente e fa recuperare un ruolo importante all'operatore telefonico, che invece tende ad essere cortocircuitato, disintermediato dai cosiddetti over the top, dai giganti di internet. Ecco, Mozilla è un passo in questa direzione, perché Mozilla è open source, perché Mozilla abbraccia completamente i paradigmi e gli standard del web, quindi non costruisce nuovi silos, ma apre i sistemi operativi del mobile ai paradigmi del web, e il successo che ha avuto con Firefox nel mondo dei desktop, quindi nel mondo del fisso, chiamiamolo così, promette anche qualcosa di buono nel mondo del mobile. Voi pensate che usciranno sul mercato altri terminali anche di fascia medio-alta, perché in questo caso stiamo parlando di un terminale che costa un prezzo sicuramente molto buono, stiamo parlando di un'ottantina di euro, però chiaramente il mercato è molto variegato e quindi c'è forse spazio, ma la domanda la faccio a lei, se c'è spazio per altri tipi di terminali in futuro, nei prossimi mesi? La risposta è sì, per chi ha vissuto, ha frequentato la storia di Mozilla, di Firefox, ha sicuramente in mente che i sistemi open hanno una evoluzione molto accelerata, ma hanno un miglioramento nel tempo. Firefox è iniziato, adesso se non sbaglio, nel 2004, non vorrei ricordare male la data, ed è andata avanti, credo che oggi siamo alla 25ª, 27ª release di Firefox per desktop, e ovviamente il miglioramento avviene release dopo release, perché è tipico del mondo open source. Certo. Questa cosa succederà anche sul mobile, quindi sicuramente partire da una fascia low cost dove magari c'è minor sensibilità a tante raffinatezze è sicuramente la strada giusta. Io sono assolutamente convinto che se il sistema aperto, se il sistema operativo open source avrà successo, e sono convinto che lo avrà, andrà a pervadere tutte le altre fasce di terminali. In questo caso, con questo sistema operativo, è il produttore dello smartphone a decidere quale sistema operativo va a bordo dello smartphone, o è l'operatore che fa una richiesta specifica al produttore di telefono, in questo caso Alcatel? Sono partnership. Gli operatori Telecom Italia, insieme a tanti altri operatori anche più grandi di Telecom Italia, hanno supportato la Mozilla Foundation nel lancio del loro Firefox OS e hanno chiesto ai vendor, ai produttori di terminali, di adottarlo. Ovviamente i produttori di terminali, vendendo telefoni agli operatori, sono stati ben lieti di abbracciare la filosofia e di metterla a bordo. Quindi diciamo che è una partnership, è un gioco a tre. Voi avete fatto delle ipotesi su quote di mercato, perché diciamo che già è difficile per Windows Phone competere con Android e con iOS. È chiaro che qui stiamo parlando di un mercato molto difficile. Avete fatto delle ipotesi di penetrazione di questo sistema operativo? No, non ho in mente delle penetrazioni. Io, se noi guardiamo quello che è successo negli anni, ad esempio nel mondo del desktop, Mozilla, Firefox si è attestato stabilmente al di sopra del 20%, partendo da zero, in un mondo in cui Explorer, dopo la morte di Netscape, era arrivato al 90%, oggi Explorer è al 55%. È pur vero... È tutto un altro mondo quello. È un altro mondo, certo. E anche in questo mondo, che è un altro mondo, sta crescendo molto più di Mozilla, stanno crescendo Chrome e Safari, quindi sì. I sistemi operativi che in qualche maniera sono nati in ambiente over the top, diciamo, stanno crescendo ad altissima velocità. Io non so fare previsioni di mercato. Quello che so di sicuro è che l'industry degli operatori di telecomunicazione è molto supporta molto questa apertura, supporta molto la filosofia, l'apertura al web, l'HTML5 che è tipico di Firefox, sì. Di Mozilla. Sì. Quindi io credo che questo qui possa fare la differenza, insomma, l'appoggio degli operatori potrebbe fare la differenza. Sicuramente, almeno come canale distributivo, non c'è dubbio, perché, come dire, i negozi ce li avete voi sul territorio, quindi l'offerta commerciale è importante. Senta, la mancanza di un'offerta, diciamo, integrata di storage online, di servizi per salvare le fotografie, tutti quei servizi tipici che vengono offerti da gli over the top, ma faccio riferimento molto, molto semplice sia ad Apple che a Google. Ecco, su un sistema del genere, questi servizi immagino che non ci siano. Può essere un vincolo? Oppure come vengono sostituiti? Ma qui succederà una cosa molto semplice, la vedremo quando parte un ambiente open. Se lei verifica già i blog più tech fan che sono seguiti a questo annuncio, la comunità open è pronta a partire a lavorare su questo nuovo sistema operativo. In genere, quando una comunità open source parte, vengono bruciate le tappe. E questo, secondo me, succederà anche in questa direzione. In più c'è da dire che mentre i giganti di internet tendono ad attaccare ad un telefono un sistema operativo, ad un sistema operativo un app store, ad un app store un cloud e così via, la filosofia del sistema operativo aperto fa recuperare un ruolo agli operatori, che potranno essere loro in qualche maniera a fornire il personal cloud, che potranno essere loro a fornire una serie di servizi che magari sono anche un po' più sicuri per il cliente. Bene, Cicchetti, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a lei, grazie di tutto. Adesso cambiamo argomento. La scorsa settimana abbiamo parlato del compenso per coppia privata. Però molti di voi sapranno che quando acquistiamo un terminale, che può essere uno smartphone, un tablet, un computer, anche un hard disk, annegato nel prezzo c'è una quota che noi paghiamo proprio per il cosiddetto compenso per copia privata, una quota che noi paghiamo che finisce nelle casse della SIAE, che poi la gira ai detentori del diritto. La ratio di tutto ciò è che la legge permette in Italia e in una serie di paesi anche in Europa di fare una copia ad uso privato, ma va compensato l'autore, il detentore del diritto, perché noi facciamo questa copia ed evitiamo di comprare un'altra, se facciamo l'esempio della canzone, un'altra canzone. Allora, per ricompensare l'autore, il detentore del diritto, ha pagato questa quota, ma il problema è che la si paga a prescindere dal fatto che uno faccia questa copia, che uno compri una canzone, un film, un altro contenuto che è coperto dal diritto d'autore. Se uno compra uno smartphone e lo usa solo per telefonare o per guardare le mappe o per fare fotografie, giustamente molti ascoltatori dicono: ma perché io devo pagare questa cosa? Idem se io compro un hard disk e sull'hard disk ci salvo i dati che io genero, documenti, fotografie, film di quando vado in vacanza, eccetera, eccetera. Allora, stiamo parlando di un gettito complessivo in Italia che vale circa 70 milioni di euro. Se ne parla in questo periodo perché il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe aggiornare le tariffe e indiscrezioni che abbiamo raccolto da più fonti dicono che una delle ipotesi sul tavolo, c'è chi dice che esiste una bozza, ma il Ministero per il momento non sostiene che non esista alcuna bozza, ma esistono solo documenti di lavoro. Dicevo, secondo alcune indiscrezioni, una delle ipotesi è che questo gettito possa salire a 200 milioni. Come si fa? Aumentando le tariffe e anche estendendo il prelievo ad altri apparecchi. Ovviamente bisogna mettere in equilibrio, il Ministero dovrà mettere in equilibrio interessi contrastanti, l'industria da una parte, poi ci sono anche i consumatori che molto spesso questa quota la devono pagare se l'industria non se ne fa carico, e poi naturalmente i detentori dei diritti. L'industria da un lato è preoccupata, è molto preoccupata, perché siamo in un periodo in cui le vendite calano, il mercato dell'elettronica di consumo è in forte crisi, i margini si riducono, e uno dei dilemmi è ce ne facciamo carico noi di questa quota, quindi non la riversiamo sul prezzo finale, oppure invece aumentiamo e quindi dovremo aggiornare i listini mettendo questa quota a carico del consumatore finale, che già si è vista aumentare l'IVA, e poi insomma stiamo parlando anche di un periodo di crisi generale dei consumi, e quindi questo sarebbe un ulteriore aggravio su tutta la popolazione. Quindi ci sono molte domande dei nostri ascoltatori che ci fanno, ad alcune siamo in grado di rispondere, ad alcune nessuno è in grado di rispondere, perché effettivamente alla domanda ma per quale motivo io che non compro alcun contenuto e non ascolto musica, non faccio nulla, magari con un computer, devo pagare questa quota. Questa è la legge attuale in Italia. Ci sono altri paesi che si sono diretti verso altre direzioni, quindi c'è anche un tema politico legislativo. La scorsa settimana ne abbiamo parlato, e durante la settimana mi ha scritto Enzo Mazza, che è il presidente della FIMI, l'industria che rappresenta l'industria discografica in Italia, la Federazione dell'Industria Musicale in Italia, che è qui con noi. Bentornato a 2024, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Mazza mi ha scritto dicendo: ma vorrei aggiungere qualche elemento al dibattito. Ti faccio subito una domanda. Una cosa che ho detto è: questo meccanismo probabilmente, secondo molti esperti, è un meccanismo che è nato in un mondo che non era tecnologicamente parlando simile e paragonabile a quello di oggi. Forse andrebbe ripensato, non solo rimodulato, ma proprio ripensato nella sua ratio. Sì, in realtà la copia privata, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, perché a parte appunto il mercato britannico, è presente in tutti i paesi d'Europa un sistema similare. Segue di fatto la tecnologia, perché il fatto stesso che venga rimodulato oggi significa che alcuni, per esempio, supporti obsoleti usciranno da questo, chiamiamolo, paniere. Altri supporti cambiano il modello di utilizzo. Io faccio un esempio: quando è stato fatto il decreto, precedente i tablet stavano appena comparendo sul mercato, gli smartphone non c'erano e c'erano dei telefonini che facevano poche attività. Oggi di fatto noi abbiamo in mano degli strumenti che sono dei personal computer che fanno video, audio, posso trasferire materiale ovunque, posso metterlo sulla nuvola, posso scaricarlo da altri supporti, quindi ovviamente si rende necessario adeguare anche i compensi a questo tipo di utilizzazione. Il compenso in copia privata, ci tengo a dirlo, riguarda sempre un indennizzo residuale, cioè anzi, se la guardiamo dal punto di vista positivo, è quella che possiamo definire una licenza per uccidere, nel senso che io a quando ricevo quando ho pagato il compenso, poi posso effettivamente utilizzare questo supporto per caricare tutta la musica che voglio, ovviamente sempre che sia da una fonte legale, la posso trasferire un numero illimitato di volte su questi supporti. Io posso metterle su una pendrive, poi posso tenermi la pendrive, diciamo metterla che sull'iPad, in teoria è così, posso metterla... È così anche nella pratica. No, poi, perché poi... Ad esempio ci sono dei servizi musicali che ti dicono se tu acquisti un brano musicale lo puoi riprodurre al massimo su 5 terminali. La copia ad privata esempio, consente di farlo di più. Quindi capito, questo vuol dire che, posso... ci sono i sistemi che te lo impediscono. No, beh, in realtà i DRM, per esempio sulla musica, i DRM non esistono più e quindi comunque non sono stati... I DRM lo diciamo per sì, chi i non, sistemi non di sa, protezione dei file che non consentivano la copia sono stati eliminati e a beneficio tra l'altro del consumatore, quindi in realtà il fenomeno della copia privata, come ribadisco, è un fenomeno estremamente limitato. Tra l'altro il peso soprattutto su oggetti come smartphone o tablet o quant'altro è sostanzialmente irrisorio rispetto al valore e anche alle potenzialità che posso utilizzare. Purtroppo è un meccanismo che oggi è il migliore possibile rispetto alla destinazione, diciamo, del contenuto musicale o video. Stiamo parlando marginale, irrisorio, ma comunque una cosa che muove un sacco di milioni di euro. Questo va detto e va ricordato, che sono soldi che i cittadini pagano sui terminali che acquistano. Però faccio delle domande molto... molto specifiche di ascoltatori. È proporzionato alle vendite, non è che va... No, certo, però... Cioè, se un mercato, per esempio, il compenso di copia privata declina su quei segmenti che dove non si vendono, quindi è proporzionato comunque sempre al mercato. Vale milioni di euro se il mercato cresce, se il mercato scende non vale dubbio. Milioni di euro. Non c'è questo, dubbio. No, perché magari qualcuno pensa che viene comunque stabilito sì, a priori. Sì. Però faccio delle domande che gli ascoltatori fanno con una certa ricorrenza e devo dire che anche io mi faccio... Se io ho uno smartphone, se io ho un tablet o anche un hard disk, non ho mai capito la ragione per cui io debba pagare questo compenso che va a finire alla SIAE. La SIAE si occupa della raccolta, poi la SIAE gira questi denari agli autori e agli editori. Non si capisce perché io debba pagare laddove, ad esempio, io non ascolto musica, non guardo film, io ho uno smartphone, faccio fotografie quando vado in vacanza e null'altro. Non si capisce perché no. Debba ricompensare qualcuno con il quale io non ho nessun tipo di rapporto. Questo è stato ben chiarito anche dalla Corte di Giustizia. Però non ha molto senso. La Corte di Giustizia, ma non è sei come io che pago l'assistenza sanitaria e poi non mi ammalo mai, però il giorno in cui voglio utilizzare l'assistenza sanitaria, questo mi consentirà a un costo irrisorio di utilizzarla. Guarda che... ripeto, la copia privata va vista come una licenza di utilizzazione di un contenuto, quale esso sia, che magari non ho potuto neanche avere perché magari non è in download, ma l'ho messo dal mio CD e quindi posso utilizzarlo su tutti i tablet o quant'altro, ma è indipendentemente dalla finalità dello strumento e dalla quantità di ore che utilizzo magari video e audio sullo forfait. Strumento. È un forfait. Tant'è che è molto ridotto rispetto all'effettivo, perché l'utilizzazione di uno smartphone può essere milioni di brani precaricati da un consumatore, quindi valere il compenso di copia privata potenzialmente dovrebbe valere 500 euro e poi quello che tiene solo due file e dovrebbe valere 0,20 centesimi. Viene costruito proprio un meccanismo per il quale questa licenza, questa royalty è molto molto bassa rispetto al valore di solito dei prodotti. questo in modo tale da spalmarlo effettivamente su tutti i prodotti. Però, ripeto, è una licenza che consente di utilizzare dei contenuti e non essere qualificato come un pirata sostanzialmente. La parola pirata potrebbe far venire in mente cose illecite. Per dire, non potrebbe essere considerato un riproduttore non legale, no? Se non ci fosse il compenso di copia privata, certo. Non ci sarebbe nemmeno la copia privata, che noi riteniamo invece un errore. Cioè Regno Unito, dove non c'è, effettivamente, per legge tendenzialmente non si potrebbe fare. Questo però è un errore, soprattutto grazie alle tecnologie che hanno un sacco di strumenti che consentono invece di portarsi appresso la musica in qualsiasi istante. Esiste, comunque diciamo, nello specifico, io effettivamente all'ascoltatore che mi chiede: ma perché io devo pagare una cosa alla SIAE? Ma il problema non è tanto la SIAE, il problema è devo pagare qualcosa a degli autori con i quali io non ho rapporti. Nel caso specifico effettivamente è un po' bizzarra la cosa. In realtà sa che può utilizzare 25, nel nostro caso può utilizzare sostanzialmente 25-30 milioni di brani che sono disponibili su tutte le piattaforme e metterseli su tutti i suoi strumenti. Però è difficile da giustificare. E pagando una quota irrisoria che viene poi distribuita dalla SIAE. Attenzione, la SIAE raccoglie e trattiene solo la parte degli autori editori. Va molto chiarito questo, l'ho sentito anche dire, questi soldi non si sa dove vanno a finire. C'è stato un contenzioso che però è cessato, almeno c'è stata una decisione in sede ITAR e SIAE ha potuto distribuire. Questi denari sono già arrivati alle case discografiche, agli editori, agli artisti e agli autori. E tu confermi che sono arrivati? Sono arrivati, come no? Una delle cose che mi piacerebbe che succedesse è che ci si adeguasse un po' di più ai meccanismi tecnologici, non solo ai supporti, cioè salta fuori un nuovo supporto, un nuovo tipo di prodotto, di device, di terminale, quindi anche lì applico il compenso per copia privata. Faccio un riferimento, e anche qui cerchiamo di rispondere agli ascoltatori che si sono abbonati ai servizi di streaming musicale. Io mi abbono, quota fissa mensile, posso ascoltare tutta la musica che voglio. In quel caso io già pago un abbonamento e non c'è ragione di farsi una copia privata in quel caso, streaming, no? Ma perché anche in questo caso non è, che è molto giustificato. Su questo tipo di utilizzazioni il compenso, secondo anche quello che dice la Corte di Giustizia o anche quello che dice l'ex commissario europeo Vitorino, che è stato incaricato di fare uno studio che è stato presentato sul tema, laddove licenziato legalmente il contenuto, quella quota va rimossa dal contributo di copia privata. Però questo non dipende dall'utilizzazione del telefono. Paghi per il telefonino che acquisti o lo smartphone, ma nessuno può sapere a prescindere dall'utilizzazione che tu fai se avrai un servizio in streaming o utilizzerai la copia privata dei tuoi CD. Solitamente, e lo dicono tutti gli studi, tutti noi come consumatori abbiamo un'utilizzazione mista di questi contenuti. Però qui stiamo... Tant'è che lo prevedono anche le piattaforme, ti consentono di fare streaming addirittura dei file tuoi messi dal CD inseriti nella banca dati mischiata con lo streaming o con i file però è un meccanismo che si basa sulla presunzione, giusto? È un meccanismo È un meccanismo che si basa sulla presunzione di un'utilizzazione ed è indenitario. Ed è stato appunto confermato a Corte di Giustizia che questo è l'unico meccanismo, quello della non è contrario alle leggi europee e non è contrario alla normativa. Mettiamola così. Un contributo, una royalty, laddove anche lo strumento poi non verrà utilizzato effettivamente per fare la copia. Questo è un principio che è stato salvaguardato a livello europeo. Possiamo essere favorevoli o contrari al modello, però il modello ha passato il vaglio della Corte di Giustizia. Ma infatti nessuno contesta la liceità della cosa, cioè non è che uno dice che non è lecito, magari è politicamente poco opportuno. Magari potrebbe essere cambiato rispetto ad altri modelli. Il problema modelli. È che la copia privata purtroppo sconta un fatto, un peccato originario. A differenza di tanti altri aspetti riguardanti il diritto d'autore, non è stato armonizzato a livello europeo. Cioè non c'è un meccanismo univoco con tariffe univoche piuttosto che benchmark univoci in Europa. E questo è oggi un problema, laddove poi ogni Stato adotta modelli magari diversi e quindi crea delle situazioni di non omogeneità. Purtroppo questo però lo si può risolvere solo cercando di armonizzare la normativa europea, se non certamente non pagando il compenso di copia privata perché non è armonizzato, perché io non sono d'accordo su questo. Non c'è dubbio, però anche su questo devo dire che alcuni operatori di commercio elettronico dicono, visto che alcune cose costano meno in altri paesi e l'importazione, che dovrebbe sì poi adeguarsi e pagare, ma poi nei fatti non lo fa, quindi operatori di altri paesi danneggiano operatori nazionali. Il principio del paese di destinazione è stato chiarito a corte di giustizia. Sì, però poi sappiamo che i meccanismi non sono così fluidi. Tendenzialmente viene applicato, ci sono anche state decisioni contro grandi operatori di e-commerce. Faccio un esempio a proposito di tecnologia, perché sulla tecnologia vorrei... Allora, ci sono delle aziende, lo dico non tanto a te che lo sai benissimo, dico agli ascoltatori, che ti dicono... Compri un contenuto, quindi che ne so, un film o una canzone, probabilmente nelle canzoni non esiste, ma so che esiste per i film, assieme a quel contenuto ti do dei codici con i quali tu ti puoi scaricare una copia per fartene quello che vuoi. In questo caso, se io mi voglio fare una copia, prendo questi codici, se non voglio farmi la copia non prendo i codici, non uso i codici, ma come dire, lo faccio su base volontaria, quindi... Il meccanismo della copia privata, del compenso per copia privata, potrebbe essere cancellato in questa ipotesi. Grazie alla tecnologia. Appunto, la regola generale è che laddove i contenuti sono licenziati legalmente, in questo caso non scontano la copia privata, ma questo viene già considerato nelle analisi che vengono costruite per modellare il compenso di copia privata. Si tiene già conto, in generale, in tutti i paesi lo fanno degli studi, considerano il numero di utilizzazioni, non è che viene costruito questo modello sulla base di considerazioni che cadono dall'alto, vengono fatti studi di mercato, vengono raccolti dei dati che dicono tutti noi come consumatori come utilizziamo questi supporti, e alla fine si stabilisce che c'è sempre un'utilizzazione di contenuti legali a copia privata, c'è sempre, non è che tutti i consumatori comprano solo il film e scaricano il codice e guardano solo quello, in realtà poi si fanno anche delle copie legali di film, piuttosto che per la musica è sempre così, tra l'altro. Io immagino che anche voi siate d'accordo nel estendere il compenso per copia privata al cloud. Ma che senso ha? Ma il cloud in realtà è un tema complesso, non è un tema all'ordine del giorno in questo momento, non credo che si estenda al cloud, non è previsto dalla normativa italiana, è in fase di dibattito in alcuni paesi europei, ma in questo momento noi riteniamo, ma questo lo dico come industria discografica, che il compenso deve essere effettivamente limitato solo laddove c'è un'utilizzazione di un device, perché il cloud non è un device, ovviamente. Dove c'è un'utilizzazione di un device e quel device consente di utilizzare copie ad uso personali di CD piuttosto che di file o quello video musicali. Il cloud è un argomento complesso che richiede sicuramente un'analisi approfondita e richiede poi un'uniformità di approccio in tutta Europa, anche perché il cloud per definizione non è un luogo che si colloca in una determinata posizione geografica. Certo. Per concludere, quanto vale per l'industria musicale il compenso per copia privata? Il compenso di copia privata varia, nel senso che per l'industria musicale credo negli ultimi anni si sia oscillato intorno ai 15-20 milioni di euro, e magari è stato più alto in una prima fase ed è declinato perché, come dicevo prima, i supporti sui quali venivano effettuate le copie, per esempio i CDR, non sono più utilizzati come prima. Sono utilizzati maggiormente supporti o device che invece scontavano una percentuale molto, o un prezzo fisso molto basso, e che sono diventati più importanti, ed è questo uno dei motivi per cui viene rivisto. Questo è un po' come il panel dell'Istat, viene a un certo punto vengono fatte delle revisioni perché proprio la legge lo prevede, nel senso che, come dicevamo prima, ci sono nuovi strumenti che nascono e che vengono utilizzati, o altri che diventano più rilevanti nel consumo. Non è che tu tassi di più. Detto, se vogliamo usare sempre quel termine brutto che qualcuno utilizza, dice la tassa di copia privata. Questa è una tassa. Non è una nessuno tassa, dice che è una tassa. È una retribuzione per un consumo effettivo che viene fatto. Sarebbe una tassa se fosse pensata come qualcuno voleva introdurla in Francia, cioè introdurre una tassa generalizzata su tutti i device, su tutte le utilizzazioni, per poi finanziare la cultura. Ecco, per esempio, quello, solo la cultura in generale, è un aspetto che probabilmente non dobbiamo seguire nello stesso modo. Possiamo utilizzare questi, e altri paesi lo fanno, utilizzare parte di questi diritti per sostenere magari delle iniziative legate però specificamente alla musica, ai film, penso ai giovani. Beh, questo è un dibattito ampissimo tra Stati Uniti ed Europa. Io sto con gli Stati Uniti: la cultura, la musica, il cinema, eccetera, si deve sostenere col mercato. Sì, ma poi soprattutto non con questo meccanismo solo di un prelievo fine a se stesso. Certo, in questo caso il prelievo deve essere sempre collegato a un'effettiva utilizzazione, almeno come posizione industria musicale noi siamo molto radicali su questo. Deve andare poi agli aventi diritto, perché c'è stato un uso, un utilizzo di quel contenuto, non di un altro bene. Sì. Bene, grazie ad Enzo Mazza per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Allora, su questo tema ci è arrivata una richiesta di rettifica da Gianfranco Giardina, ne parliamo tra poco. Prima le anticipazioni di Nova, il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore che trovate domenica assieme al Sole 24 Ore, guidato da Luca De Biase, che ci racconta che cosa è stato scelto questa settimana come tema della copertina. Beh, è uscito Creative Commons 4.0, la quarta versione di questa soluzione per gestire il copyright in modo particolare, cioè adatto, secondo gli organizzatori, a consentire il fatto che le persone possano mantenere il proprio copyright, gestire il proprio diritto d'autore e nello stesso tempo darlo in licenza ad altri che ne facciano varie cose. L'idea fondamentale è che la gran parte della conoscenza è nel pubblico dominio, che le conoscenze d'autore sono soggette al copyright, che normalmente il copyright riserva tutti i diritti a chi ha creato e acquistato questo diritto. Invece Creative Commons dice: io ho tutti i diritti, ma li cedo a chi li vuole usare secondo le regole che stabilisco. Per esempio, possono usarli, trasformarli, cambiarli, riproporli, ma non possono venderli. Sì. Questo vale per tutto ciò che è protetto dal diritto d'autore, quindi testi, musica, video, tutto, giusto? Certo, e il punto del Creative Commons 4 è che si occupa delle cose che sono prodotte da grandi organizzazioni, anche di cose che sono prodotte da grandi organizzazioni che generano i big data. Una delle domande che si fanno ai grandi possessori di insiemi enormi di dati come lo Stato e le autorità locali, per esempio, è: ok, mi hanno detto che i dati che vengono prodotti con il denaro pubblico devono essere resi pubblici, e questo lo stabilisce l'Europa, salvo poi aggiungere che di questi dati comunque si deve tener conto per quanto riguarda il diritto d'autore e la privacy. Allora lì le autorità si trovano a dover interpretare la situazione secondo regole che non sono ben conosciute. Creative Commons 4 sembra fatto apposta per questo, perché fondamentalmente dice: tu puoi definire la tua banca dati come una cosa che è generata da un autore, da un'opera d'autore collettivo, e la puoi dare in licenza secondo le tue scelte, per esempio a chi ne faccia uso pubblico e non uso commerciale, il che obiettivamente sblocca una serie di incertezze verso la società degli open data, dei dati che, essendo pubblici, possono essere utilizzati al pubblico per scopi pubblici, per scopi comuni. Sì, diciamo che è un tassello fondamentale verso un un ecosistema dove gli open data possono essere utilizzati con maggiore facilità, diciamo così. Eh sì. Dunque, che cos'altro troviamo su Nova? Di che cosa vi siete occupati? Beh, c'è un pezzo della Elena Comelli sui droni e sul fatto che dopo che Amazon e Jeff Bezos hanno annunciato l'utilizzo dei droni per la consegna dei pacchetti, c'è stato un ulteriore aumento dell'attenzione intorno a queste tecnologie nate per usi militari, ma che adesso cominciano a costare così poco che possono essere pensate anche per usi civili. E ci sono molte iniziative, molte tecnologie anche in Italia. C'è una startup a Pisa che fa questi elicotteri, droni per il trasporto delle cose. C'è un drone tutto ala che si chiama Aerodrone di una startup parmigiana che è stata finanziata tra gli altri anche da Mauro Del Rio con il suo fondo Capital B. Diciamo che questo è un settore dove ci sono parecchie startup che stanno cominciando a operare e lavorare. È una grossa cosa. Noi adesso non sappiamo come saranno le regolamentazioni, che poi sono sempre un pasticcio dal punto di vista della velocità con la quale si adeguano all'innovazione tecnologica, però certamente siamo di fronte a cambiamenti dei quali in 4-5 anni ci accorgeremo molto bene. Jeff Bezos, che ha cominciato nel 94 dicendo Internet cresce del 1300%, è piccola ma sarà molto importante, ho l'impressione che la veda di nuovo questa cosa. E questa era Luca De Biase con le anticipazioni su Nova, il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, la domenica in edicola, anche nella versione digitale su terminali come l'iPad. Dunque, vi dicevo poco fa, mi ha scritto Gianfranco Giardina questa settimana con riferimento alla trasmissione di sabato scorso, il 30 novembre 2013. Scrive: purtroppo ho risposto in diretta in maniera affrettata ad una tua domanda riguardo alla gestione della SIAE, cui non avrei voluto fare riferimento anche perché fuori dal nostro tema. Ho affermato che la ridistribuzione da parte della SIAE del compenso per coppia privata era sospesa per un contenzioso con l'industria. L'informazione non era aggiornata, il contenzioso nel frattempo è andato a sentenza favorevole alla SIAE e la ridistribuzione ripresa. Allo stesso modo, da considerarsi nullo ogni altro mio riferimento alla gestione SIAE data in quel contesto. Ti prego di darne a mio nome chiara comunicazione in trasmissione per garantire una corretta informazione ai tuoi e ai nostri ascoltatori, con cui mi scuso per l'errore e la breve digressione su temi lontani dai nostri abituali argomenti. Bene, fatta questa rettifica doverosa, anche perché mi ha scritto una email, quindi il nostro dovere è fare rettifiche o comunque dare la parola a chi ci chiede di aggiungere un elemento o di precisare una questione. Ciò non toglie nulla al merito della questione sull'equo compenso, sulla ratio di questo meccanismo, ma di questo abbiamo già parlato e sicuramente potremo tornare nel futuro sull'argomento. E così noi concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori che hanno scaricato questa che è la versione podcast del nostro programma. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio tra le 15 e le 16, oppure tra le 23 e le 24 della domenica. Vi ricordo che il nostro programma si ascolta anche in Digital Radio, oramai il servizio di Digital Radio in tutta Italia, quindi la radio digitale è esteso in buona parte del nord Italia e su tutta la dorsale autostradale da Bolzano fino a Roma. Quindi oramai il segnale è diffuso con una qualità di suono perfetto. Se volete maggiori informazioni potete andare su www.digitalradio.it. Oppure gli altri sistemi per ascoltarci, oltre naturalmente all'FM, sono il canale 700 di Sky, oppure internet attraverso anche le nostre applicazioni. Sul nostro sito internet trovate maggiori informazioni e ovviamente il servizio podcast. Bene, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta in redazione, grazie ai nostri tecnici. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 è radio24.it. Appuntamento tra 7 giorni. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.